Ciao. Ciao Masi. Ciao. Allora. Ma come sei sexy? Sei troppo sexy. Aspetta, mi prendo un po' più vicino. Mi avvicino io, non ti muovere. La mia pancia non ti vede? No, ti ho preso soltanto così. Ah, ok, perfetto. Però è un po' troppo poco, aspetta. Ripartiamo. No, quando vuoi. Bene, intanto grazie per aver voluto partecipare a questo nuovo progetto. Grazie mille, grazie per invitarmi. E raccontaci tu qualcosa che ti fa piacere, ecco. A che cosa? Di te. Ah. Della tua musica, dei tuoi strumenti musicali. Mm. E di quello che è stato questa esperienza insieme in questi giorni. Questa esperienza abbiamo parlato con Violet prima per fare un progetto insieme, danza e musica, però un po' improvvisamente. Quindi dopo ho capito che c'è un come si dice, spazio, un campione qui per fare questo progetto, quindi è molto bello fare questo qui, soprattutto vicino al mare, con questo spazio, natura, un senso calma, come questo. E con questo strumento che abbiamo fatto, lo strumento è molto profondo e calmo, quindi è collegato con questo senso che ho sentito qui anche. Quindi mi fa piacere, è molto, un'esperienza molto bella e anche nuova per me. Ecco. Sì. Però la sensazione appunto è che sei stato perfettamente a tuo agio già da subito. Ti sei sentito bene? Sì, sì, sì, sì, certo, perché no. Uh-huh. Sono un po' generalmente timido, quindi non ho fatto. Però abbiamo fatto questo quando non era altre persone, anche con altre persone forse come si dice, la mia concentrazione è più bassa. Però no. È sentito perfetto, per questo ho fatto anche una musica nuova che sono molto contento, ho fatto nuove cose, qualche idea, anche uscito qualche idea. Quindi sono emerse cose nuove? Sì, sì, sì, sì, certamente. Almeno un brano è emerso. Ah! Sì, sì, un brano. Beh, allora intanto lo aspettiamo. Sì, sì. Con gioia sì, lo sì, riceveremo. Sì, sì. E invece hai voglia di raccontare qualcosa di te, chi io, sei, cosa fai, com'è? Io sono un'artista iraniana che adesso sto vivendo per 3 anni a Torino. Sono venuto per studiare l'arte, arte visiva, studio pittura presso l'Accademia Albertina, Torino. Però prima inizio di questo ero un musicista. Quindi generalmente il mio mondo è l'arte, arte visiva, arte, musica, anche performance art, sì, questa è una connessione tra arte visiva, musica e altri tipi di arte. E quindi la mia vita più o meno è arte, quindi anche ho deciso di andare in Italia per questo, perché per me è un paese che rappresenta l'arte e la cultura e sono molto contento. Sono venuto qui. Noi siamo anche molto contenti di averti sì, sì, qui. Grazie. Però ho quasi 42 anni, quindi mi sembra che ho iniziato un po' in ritardo per immigrare e iniziare una nuova vita, perché prima in Milan ho vissuto un'altra vita, con ingegneria, come lavoro in ufficio, quindi completamente una nuova vita per me, una nuova vita per me. Ecco, una domanda. Dici appunto che quando eri in Iran facevi una vita diversa da quella di adesso e lavoravi in ufficio e mondo dell'ingegneria, mi sembra di capire. Ma la decisione di venire in Italia è perché tu stavi già sentendo questo profondo desiderio di dedicarti solo all'arte, oppure sei venuto in Italia e quando sei stato qui questa passione, questo desiderio e questa spinta verso quando l'arte? Quando ero bambino la mia vita era arte completamente. Ho iniziato a dipingere quando avevo 3 anni, solo questo, sul muro. Dopo forse avevo 13 anni e ho iniziato anche musica, tutto entrambi insieme. Però come in Italia anche è una cosa normale, in Iran anche l'arte non è molto forte per gestire la vita, quindi i genitori sempre dicono che devi studiare altra cosa, lavorare con questo, e arte anche piccola parte puoi fare questo. Quindi io ho fatto questo, come la maggior parte di gente, però ho capito che durante anche questo periodo ho capito che no, questo non sono molto contento. E piano piano quando ho iniziato questo lavoro di ufficio, l'ultimo lavoro che ho fatto, che era un lavoro buono, abbastanza buono, mi hanno pagato molto buono. Però dopo 3 anni è stato fastidio completamente, non potevo fare di più perché solo era lavoro, dormire, riposare, lavoro, arte è cancellato completamente, non c'era di più, non potevo fare di più, non avevo energia, non avevo di voglia di fare arte di più. Quindi ho sentito che una parte grande del mio cuore sta morendo, quindi forse dopo tre mesi ho pensato di questa idea e ho iniziato a studiare italiano, a iniziare questo progetto. Anche è scattato qualcosa, no? È scattato qualcosa dentro di te, no? Che ti ha fatto decidere adesso basta, io voglio cambiare. Sì, perché durante questo periodo ho provato a fare arte anche, però non sono riuscito. Quindi dopo qualche prove ho capito che no, non posso vivere senza arte. Certo. Anche la mia vita era perfetta, una casa e tutte le cose, mobili, i miei gatti, tutte le cose erano perfette, però no. Una cosa principale ancora. Certo. Tu hai questa grande passione per i gatti, vero? I animali generalmente, okay. Sì. Però i gatti, a caso ho fatto come ho preso i gatti, non volevo fare questo, però ho visto gatti randagi che come si dice? Conoscevo una persona, un'amica che si dedica. Sì, andate questo, quindi ho visto questo vicino, quindi capito che mi piace fare questo. E quindi adesso hai 3 gatti con te, vero? Sì, ho portato da Ira. Sì. Senti, ci vuoi dire qualcosa riguardo agli strumenti musicali tuoi che hai portato qui? Che origine hanno e come si chiamano questi strumenti? Sono molto particolari, ce ne vuoi accennare un po'? Sì. Ho iniziato la musica con musica classica, come violino classico, anche la chitarra e anche un po' la musica metal, la chitarra elettrica, molto anni fa, prima di questo strumento. Però dopo ho cambiato completamente il campo della musica. Questi strumenti sono strumenti etnici, curdi, un parte di Kurdistan di Iran. che sono strumenti molto vecchi, non è tradizionale, è più vecchi. Antichi, sì, proprio. Sì, antichi. Per questo sono molto semplici. Però il repertorio è molto diverso, non è una cosa tradizione classica, è un repertorio come rituale, perché questi strumenti sono strumenti di preghiera. Quindi sempre era un tipo di profondità, è, come si dice, una musica molto profonda, non superficiale. È come un tipo di meditazione, come questo era sempre. Okay. Quindi questi strumenti si chiamano un tamburo cerchio, si chiama daf. È un altro strumento con le corde che si chiama tanbur, con N. Tanbur. Sì, tanbur. E questi da due posti diversi di Kurdistan. Le lingue diverse, due tipi di lingue curdi, anche religione, anche rituale completamente diverso. Quindi anche questi due completamente repertorio e tutte le differente. Cose diverse. Sì, differente. E ci sono degli artigiani che realizzano questi strumenti sul posto, tu li hai, sei andati a cercarli? In Iran sì, sì. Questa zona ci sono due o tre città che costruiscono questo strumento, anche adesso recentemente in Teheran e altre città, perché con modernità, come si dice, strumenti moderni, con le macchine automatiche come CNC fanno tutte le cose molto facili e meno costoso. Però originale ho visto la città e questo studio che fanno questo in qualche villaggio è molto, come si dice, semplice, processo anche la vita delle persone che fanno questo era molto semplice. Quindi sì, ho visto questo processo. Bene. Fede, vuoi aggiungere qualcosa? Chiedere qualcosa tu? No. Ok. Tu vuoi aggiungere qualcosa? No, ti viene in mente? Ringrazio per invitarmi per questo progetto e come sempre per questa gentilezza anche. Grazie. Come si dice? Ospitalità. Grazie. Grazie per questo. Grazie. Era una buona esperienza per me. Spero che continuiamo di più. Speriamo che sia il primo seme che abbiamo messo assieme, no? Sì, e sì. Poi sì, vediamo. Sì, certo. Grazie. Grazie molte, Masi. Grazie. E ballerina? La ballerina l'abbiamo fatta prima. Che dici, Fede? Bene, bene, bene, bene, bene, bene. Sono diavolo cappuccino. Diavolo cappuccino.